L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Vera opportunità o moda tutta italiana? Sono migliaia i ragazzi che già preparano le loro estati all'estero, Inghilterra in primis, alla faccia della Brexit, ma non solo. Fatto sta che in gran parte questa, e Londra lo sa benissimo, sembra una mania tutta italiana. Le famiglie pagano, tanto che è un mercato che non ha visto la crisi. Molte aziende li propongono come benefit, come welfare per i figli dei dipendenti. I ragazzi, in genere dai 14 ai 17 anni oppure nel periodo dell'università, fanno esperienza. Attorno si crea una piccola grande economia. Non è importante dove, conta solamente andare. Vada, per quanta strada ancora c'è da fare. Quanto vale e soprattutto serve davvero o è solo il nostro atavico timore di non sapercela cavare? Please visit the website, but is a universal message. Because the idea without marketing and commercial but I prefer that my chief tell in English what we do. La rifacciamo tutta. Complimenti. Complimenti. Ben ritrovati da Anna Migliorati, perdonateci lo scherzo, perché invece il mercato d'affari è davvero non da poco per noi e per chi ci ospita. Allora, serve subito capire di cosa stiamo parlando. Saluto il delegato Viaggi Studio di Astoi, che riunisce gran parte delle agenzie di viaggio, Stefano De Angelis, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Vanno ancora all'estero i ragazzi italiani? Sì, ed è assolutamente un trend molto in crescita. Negli ultimi anni stiamo registrando davvero numeri assolutamente in salita. Qual è il giro d'affari? Soprattutto con il Regno Unito, che ammonta ad oltre 250 milioni di euro. 600 milioni di euro è un dato che fa riferimento non solo ai corsi di lingua, alle vacanze e studio, ma fa riferimento a tutto del settore education, quindi quando uno studente italiano per esempio va e si iscrive a università inglesi piuttosto che americane, e quindi lì chiaramente un anno costa 40-50 mila dollari o sterline, ovviamente poi questi sono numeri che fanno volumi. Meta principale, diceva, è ancora la Gran Bretagna, nonostante la Brexit. Nonostante la Brexit, perché un dato che pochi sanno è il terzo business del Regno Unito è proprio l'education, quindi tutto quello che è legato al mondo degli studi della lingua, università, eccetera, eccetera. Che per il Regno Unito nel 2018 è stato stimato con un giro d'affari di 23 miliardi di sterline. Resta il terzo business dietro la finanza e tutto il settore immobiliare. Crea un indotto molto capillare, dove addirittura la singola famiglia ne trae beneficio ospitando chiaramente gli studenti. Il mercato italiano vale circa 140-150 mila studenti all'anno, che vanno italiani che vanno a studiare per vacanze studio e corsi di lingua. L'Italia, primo mercato per il Regno Unito e il secondo mercato per gli Stati Uniti. Vuol dire che il 40% degli studenti che vanno a studiare nel Regno Unito sono comunque italiani. Le altre mete dei ragazzi italiani quali sono? Beh, sicuramente al secondo posto, sempre in Europa, c'è l'Irlanda, che sta anch'essa tanto crescendo. C'è subito dopo lo spagnolo, quindi la Spagna, e poi ci sono gli Stati Uniti, e poi ci sono altre mete emergenti. L'Asia, ad esempio? Innanzitutto si stanno affacciando delle lingue interessanti nuove, che sono il cinese, il giapponese, curiosità che da qualche anno stiamo vedendo anche un po' in crescita, la richiesta di andare a studiare nelle Filippine, perché è una lingua, la lingua inglese è una lingua ufficiale, e quindi lì c'è la possibilità anche di studiare l'inglese one to one con l'insegnante madrelingua. La spesa media delle famiglie italiane per i viaggi studio, più o meno, qual è? Si passa dai circa 2002-2007 del Regno Unito ai circa 3.300-4.000 degli Stati Uniti. Questo più o meno è la spesa media. Come sono cambiate i pacchetti delle vacanze studio? Sì, sono cambiati, nel senso che c'è una sempre più crescente esigenza da parte delle famiglie di avere un'esperienza internazionale, cioè di non trovarsi solo con italiani, ma trovarsi con ragazzi che provengono appunto da altre parti, anche altri continenti. ma c'è anche da dire che non è sempre possibile farlo, garantirlo. Insomma, se 4 su 10 sono italiani diventa complicato. Diventa difficile, certo. Grazie allora per essere stato con noi. Grazie a voi. Piccole cose crescono con Marco Gambaro. Allora, siamo partiti proprio da questa domanda, Marco. Perché noi italiani viaggiamo di più all'estero, ci spostiamo di più all'estero per studiare le lingue? Questo deriva in parte dalla scarsa preparazione degli insegnanti, che hanno probabilmente imparato l'inglese da un insegnante italiano che a sua volta l'aveva parlato da un insegnante italiano che era stato all'estero circa un mese. Il livello è un po' basso, che era frutto, fino a un po' di tempo fa, dello scarso bisogno che dell'inglese c'era nella società italiana. Sul grande schermo, per esempio. Esattamente, quello del grande schermo. C'è l'abitudine da tanti anni di doppiare i film stranieri in Italia. I film stranieri si vedono doppiati. All'inizio questa era una misura per rafforzare l'industria cinematografica, per dare lavoro ai doppiatori. Ma col tempo questa cosa ha provocato dei danni. Una seconda ragione è la particolare forma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. Pensiamo a com'era 20-30 anni fa. Un sistema orientato all'esportazione di prodotti relativamente di base, fatto da piccole imprese che non hanno una stabile organizzazione all'estero, cioè non c'era in Italia il fabbisogno generalizzato di gestire reti multinazionali. La struttura economica italiana faceva imparare l'inglese, ma di fatto lo richiedeva poco nella quotidianità. Lo richiedeva poco. Le nuove tecnologie, le nuove economie porteranno ad una conoscenza maggiore dell'inglese. Una volta si studiava per capire le canzoni, adesso probabilmente davvero per lavorare anche se si sta in Italia. Sicuramente sì, le nuove tecnologie portano un aumento della diffusione sia perché agiscono sulla domanda che sull'offerta. Sulla domanda, perché ci sono professioni dove gran parte del lavoro di aggiornamento, di istruzione si fa in inglese, dove comunque si parla in inglese con interlocutore, fornitori. Lo stesso commercio internazionale elettronico fa sì che ci siano molto più facilmente fornitori altrove. E anche perché le nuove tecnologie rendono molto più semplice l'apprendimento attraverso i sistemi informatici, intelligenza artificiale, anche se paradossalmente in qualche caso ci sono delle scorciatoie, cioè i nuovi sistemi di intelligenza artificiale di traduzione automatica consentono ormai quasi, e tra poco saranno prodotti disponibili sul mercato, di fare conversazioni telefoniche parlando io in italiano e il mio interlocutore giapponese senza che nessuno dei due debba studiare la lingua dell'altro, e forse si ritornerà indietro. Grazie, allora alla prossima settimana. Alla prossima, arrivederci. Uno studio è stato fatto dalla ONLUS, Associazione Intercultura, una delle prime associazioni pioniere a lanciare in Italia i viaggi studio all'estero ormai davvero alcuni decenni fa. Allora, moda o non moda, alle famiglie italiane continua a piacere l'idea del viaggio all'estero per i ragazzi. Con noi Andrea Franzoi. Assolutamente sì, andare all'estero è assolutamente di moda, tra virgolette, nel senso che quando Intercultura ha iniziato a proporre questi programmi 65 anni fa eravamo pionieri. Oggi, rispetto a 10 anni fa, c'è stato un aumento del 210%, che equivale a circa 10.000 studenti che vanno all'estero per un programma scolastico, e un numero sicuramente molto più alto che vanno all'estero d'estate per una vacanza studio. Andare all'estero oggi significa tante cose, non c'è più solo la Gran Bretagna. Vediamo che c'è un interesse sempre maggiore verso destinazioni meno consuete come la Cina, la Russia, la Tunisia, che sì, rispetto a quelle ovviamente dell'Inghilterra, dell'Irlanda, mantengono ancora l'appeal, ma che non sono più uniche nel panorama dell'offerta. Di fronte a questo investimento che comunque i ragazzi e le famiglie fanno, qual è il ritorno? Cosa veramente guadagnano questi ragazzi? Ho delle cosiddette competenze trasversali che sicuramente rendono questa esperienza di valore a prescindere dall'apprendimento linguistico, di avere a che fare con persone che parlano una lingua diversa dalla propria, che pensano in modo diverso perché appartengono a un'altra cultura, di saper risolvere situazioni complicate, di porsi in un contesto internazionale e quindi avere anche coscienza, diciamo, delle differenze che esistono nel mondo. Tutte queste poi sono capacità, tra virgolette, spendibili sul mondo del lavoro, quando poi si porranno di fronte al mondo del lavoro? Sono spendibili, lo dimostrano anche delle ricerche che Fondazione Intercultura ha promosso in collaborazione con Ipsos, che dimostrano come gli studenti che hanno fatto un'esperienza all'estero hanno poi avuto una carriera prima universitaria e poi professionale più, diciamo, facilitata rispetto ai pari età che non hanno fatto la stessa esperienza. E poi perché il mercato del lavoro cerca tutte queste caratteristiche di cui abbiamo parlato prima, cioè la flessibilità, la capacità di adattamento, la conoscenza di altre lingue che gli studenti sviluppano con un'esperienza all'estero. Quindi da questo punto di vista tutti i dati ce lo confermano. Grazie, ovviamente studi che vanno presi con le pinze, ma il tema c'è se, come dicevamo, il settore dello studio all'estero vale in tutto 600 milioni di euro. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Io vi aspetto la prossima settimana, come sempre potete trovarci sul nostro sito www.radio24.it, l'economia delle piccole cose per questa e altre puntate. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Anna Migliorati, un buon sabato.